9 in punto, la versione di Oscar. Ed eccoci cari ascoltatori, un buon giovedì 9 di dicembre da Oscar Giannino. Puntata speciale oggi, puntata straordinaria, puntata che sarà all'altezza di quelle che vi abbiamo proposto nei 6 mesi fa, 5 mesi fa, ogni tot mesi. Giannino fa il matto, come sempre, già fa il matto ogni giorno. Tra l'altro, parentesi, ieri devo scusarmi con i genitori, mi è partita una parola che ho caricato apposta sottolineandola con una certa pausa, perché volevo farvi capire che rompere le scatole ai politici non bastava. Ho detto una cosa peggiore di rompere le scatole, ho detto rompere, non lo dirò mai più, perché hanno ragione i genitori che poi mi hanno tirato molto le orecchie dicendo ai nostri figli non possono ascoltare, perdonatemi, ma per farmi perdonare oggi torniamo a una puntata di quelle che mettono politica, economia, tutte le chiacchiere che facciamo ogni giorno intorno ai problemi che ci devastano un pochino nell'angolo, perché ogni tanto prima viene lo spirito, viene il cervello, viene la capacità di chi sa mettere su un rigo musicale, che dal mio punto di vista, l'ho sempre detto, viene prima del rigo e delle colonne su cui mettono i numeri e le parole, perché il rigo musicale è insieme matematica ed è insieme pensiero. E allora per chi è capace di fare musica a grande livello e lo è capace in una grande tradizione, quella italiana, mette insieme oggi la musica minimalista, che a me piace tantissimo, ma la mette insieme al jazz e quindi a ripetizioni meno ossessive delle cellule melodiche elementari che vi abbiamo proposto con Ludovico Einaudi e un pochino anche in alcune tecniche con Giovanni Baglioni. Oggi abbiamo con noi il Remo Anzovino Trio, e dal suo ultimo album ne parleremo dopo. Iniziamo subito con la loro musica, iniziamo con un brano che tornerà nell'ultimo album, che si chiama Igloo, e questo pezzo si chiama Attorno al Fuoco. Sono con noi in studio e suonano quindi dal vivo. Eccoci qua, questo biglietto di presentazione, dopo il primo brano pensiamo direttamente alla presentazione di chi ve lo ha suonato, cominciando dal leader del gruppo. Innanzitutto vi chiedo semplicemente di presentarvi, nome, cognome, naturalmente l'ho già detto, Remo Anzovino, però naturalmente non è da solo che avete sentito, e Remo Anzovino, saluti. Beh, ciao a te e a tutti gli ascoltatori, siamo felicissimi di essere qui in questa bellissima trasmissione di cui siamo peraltro fan. No, niente complimenti, andiamo pure. E tu stai suonando, perché non lo sanno, non ci vedono? Il pianoforte, ecco. Naturalmente. E sono accompagnato dai maestri Marco Anzovino alle chitarre. Buongiorno fratello. A tutti, buona mattinata. E da Gianni Fassetta alla fisarmonica. Ciao a tutti. Da dove venite? Pordenone. Ma sei davvero di Pordenone? Sì. Beh, diciamo che Fassetta è l'anima proprio più da generazioni, diciamo. Noi siamo nati a Pordenone, ma siamo figli di napoletani. Ecco, perché diciamoci, perché sentivo che insomma l'accento non era esattamente, perché il nostro pubblico è un pubblico attento alle provenienze, ma in un melange, diciamo così, che difende l'unitarietà. Allora, dovete sapere, per voi che siete in ascolto, che io quando hanno fatto il primo loro disco, io li ho acchiappati, perché sono abbastanza attento a vedere le distribuzioni non commerciali, e quindi la storia di questo musicista un po' particolare e di questo gruppo di musicisti un po' particolare, perché dovete sapere che Remo Anzovino in realtà è un avvocato penalista che si è laureato a 24 anni benissimo, e quindi è uno che prima ha imparato l'arte, che sarebbe questa, però quella poi che è l'arte nella vita l'ha messa da parte per il momento, ma mica troppo, quindi questa cosa già me l'ha reso simpatico. Ma la realtà è che poi il successo del So Cosa nasce con la tecnologia, cioè prima di arrivare alla distribuzione commerciale, che se non mi sbaglio è stato il secondo disco, non il primo. Sì, ecco. Praticamente sì. E con iTunes questi qua iniziano ad andare in cima alle classifiche, e allora io me ne rendo conto, ascolto un tipo di musica che non mi dispiace, perché chi mi ascolta sa che per come ho studiacchiato eccetera eccetera sono un po' un cultore di una parte di musica che nel Novecento, da Darmstadt in avanti, intreccia filoni diversi. Qui trovate un po' di minimalismo, molto jazz e molto sviluppo melodico, quindi meno ritmico, ossessivo di quello che piace a me fondamentalmente, però ci trovate anche una grandissima capacità di sviluppare semplicemente linee melodiche con un po' di sano contrappunto, e questo rende la capacità di evocare atmosfere, tant'è vero che loro sono bravissimi in fare musica in cui si reinterpretano i film in bianco e nero. Perché questa passione del film in bianco e nero? Ma perché in effetti qualche anno fa ho avuto l'occasione con la Cineteca di Bologna di potermi confrontare con la scrittura di nuove colonne sonore per grandi capolavori del muto, e dopo aver fatto circa una trentina di film con la Cineteca di Bologna prima e poi un po' con tutte le più importanti cineteche europee, è successo che di poter presentare la mia musica al Festival di Venezia, e in quell'occasione mi chiesero di fare appunto una classica musicazione di un film muto in cui noi dovevamo accompagnare le immagini. Invece io provai a proporre una cosa diversa, cioè a invertire il rapporto tra la musica e le immagini del cinema, e praticamente provai a sviluppare questa idea, cioè un concerto musicale accompagnato da una scenografia visiva che fosse una sequenza diversa di un film diverso per ogni brano musicale. E questa è una cosa che al festival piacque molto, e poi è diventata la nostra cifra stilistica, il nostro linguaggio nei concerti, perché partì da un'idea di comunicazione, se si vuole, molto semplice. Cioè penso che magari oggi, nell'era di Twitter, dell'iPad, chiaramente voglio dire, forse un film muto di 80 minuti non tutti sono disponibili. Devi vedersi un po' di Murnau, un po' della meravigliosa Louise Brooks, un po' di Pabst, questa però roba magari, qua. Magari non tutti sono proprio disponibili e pronti a farlo, però credo che una sequenza di un grande film tutti sono in grado di capirla. Oh, la realtà è, ma tu com'è che da avvocato penalista ti sei messo poi a fare questo? Lo facevi prima? No, beh, io ho iniziato naturalmente con la musica prima, ho avuto la fortuna di iniziare proprio prestissimo, a 18 anni, a lavorare con alcune piccole compagnie di teatro della mia città, poi a lavorare in pubblicità. In un certo senso la musica mi ha permesso di emanciparmi anche economicamente prima dell'avvocatura, nel senso che mi sono mantenuto un po' gli studi. Scusate, c'è un piccolo messaggio, io lo dico sempre ai ragazzi e ai giovani in ascolto, avete capito? Cioè il mestiere è più facile procurarselo con quello su cui si ha una vocazione che col pezzo di carta. Qui c'è anche il pezzo di carta, con ottimi voti, però attenti a questo messaggio, perché arrivare a 27 anni solo inseguendo una laurea che non vi dà un futuro non è detto che sia meglio che invece, se avete una vocazione, coltivarla, perché quello ve la dà prima, poi quest'altro che vocazione. No, ma sono d'accordissimo. Nel mio caso io ho avuto un grande privilegio, che per me anche il diritto è stato in effetti una grande vocazione, nel senso che mi ha molto appassionato, e parlandone con te, insomma, è chiaro che anche tu hai fatto gli stessi studi, per cui... Però sì, quello che dici è vero. Io penso che il segreto sia prendersi le passioni e dedicare tutto se stesso per una passione, e questo sicuramente, a furia di insistere, a furia di sbattere con la testa contro il muro, se quella cosa coincide con la tua vita e non sarà mai un lavoro, sarà sempre una cosa che ti permetterà di vivere con gioia anche i momenti più difficili, i momenti, voglio dire, di minor soddisfazione. Perché hai iniziato poi a fare pubblicità? La domanda è semplice, cioè quello che interessava erano, parliamoci chiaro, i compensi, o era anche, oltre ai compensi, perché non si lavora gratis, ma un'idea di sperimentazione di come si può veicolare qualche cosa che ha a che vedere col mercato, la produzione, un brand, eccetera, eccetera, contemporaneamente, senza rifugiarsi solo nel puro jingle, per così dire? Ma nel mio caso è andata così. Un direttore di produzione vide uno spettacolo teatrale in cui avevo fatto le musiche e mi propose di fare le musiche per non mi ricordo quale spot pubblicitario, quale istituzionale di un'azienda. Adesso non ricordo precisamente quale fu il primo. E lì ho capito che in effetti quel mondo mi poteva insegnare la sintesi di scrittura, cioè scrivere una musica originale, 30 secondi, mi ricordo un direttore di produzione per un'azienda di materassi che doveva fare un commercial in Ungheria, mi disse: guarda, abbiamo bisogno di 30 secondi, una musica abbia un inizio, un corpo e una coda, 30 secondi. Ecco, esserci in qualche modo riuscito, avrà avuto 22-23 anni, cioè aver passato magari una settimana per produrre 30 secondi di musica che fosse gradita a quell'idea di produzione, beh, è naturale che quando poi ti trovi un grande film, una grande scena teatrale, hai fatto un allenamento, cioè un allenamento della fantasia e dell'applicazione della musica su una cosa che magari forse non è la più artistica di questo mondo, come il materasso. Però nel momento in cui ti trovi una grande scena d'amore, un film di guerra, oppure un grande attore, un monologo, beh, hai un allenamento alla scrittura, alla visione delle cose, e hai una sintesi che sarà sempre quella cosa che ti porterà a scrivere qualcosa che serve al cinema, che serve al teatro, che serve alla pubblicità e non all'ego dei musicisti. Oh, nei tre dischi, perché questo Igloo è un disco che è uscito lo scorso aprile, e in questo disco Igloo, rispetto ai due precedenti, io ho trovato un'idea di ampliamento, per così dire, del percorso di ricerca e di esecuzione. Cioè, a me piace da impazzire Stefano Ioann, per capirci, nell'ambito della musica. Perché mi piace? Mi piace perché sa unire questa vocazione alla scrittura sinfonica, dello sviluppo delle diverse sezioni orchestrali, con l'idea di questa musica un po' ossessiva che piace a me nel richiamo. Ecco, la cosa che mi è piaciuta e che mi ha colpito molto rispetto ai due che si chiamano Dispari e Tabù, per chi li cercasse, i due precedenti album di Raymond Sovino e di chi suona con lui, Dispari e Tabù, questo si chiama Igloo, è uscito ad aprile, e quello che mi è piaciuto molto è quest'idea, infatti ci sono parti alternate con un vero gruppo sinfonico, la Sinfonia di San Marco, e lo sviluppo di arie in questi due, in cui poi tu col piano accompagni e c'è poi uno strumento che sviluppa arie o temi della parte invece che poi viene ripresa in maniera... E quindi c'è, come vedete, spiegata non tecnicamente, ma un filone di ricerca che va nella lunghezza d'onda della musica italiana, melodica, sinfonica, unita insieme nei pezzi a due col piano che accompagna a una vena giazzata che a me piace molto. Questa cosa nasce perché ce l'avevi in testa da prima, nasce perché è un percorso di ricerca, nasce perché ci sono grandi musicisti con cui a quel punto si sviluppa meglio la loro capacità, perché? Nasce perché il tema di Attorno al Fuoco è un tema che ha comunque qualche tempo ed è legato ad uno dei primi film che ho musicato, che era Nanook l'Eschimese, in cui anche, infatti, la musica abbiamo suonato prima, questa danza molto elementare che accompagnava questa famiglia di eschimesi, film girato negli anni 20 a meno 50 gradi. Lì l'idea fu cercare di far danzare gli eschimesi sopra il loro territorio e non musicare la didascalia dei ghiacci. È quello che io riserverei all'agenzia delle entrate, ma questo è come tanto per non dimenticare a quelli che sono in ascolto, che sono sempre Oscar Giannino. Ecco, io li metterei a meno 50, un po' come vi mettono in mutande quando vengono a farvi le ispezioni, ma questo naturalmente non lo pensano. Potresti anche proporre questa musica nel mentre li fai stare a meno 50, insomma. Comunque, e ti dicevo, praticamente quando è nata questa idea di questo disco è stata l'idea di sviluppare questa sinfonia, cioè proprio di scrivere una musica per orchestra, ma di pensare che forse era arrivato il tempo di accreditare i movimenti a due legati alla pura improvvisazione proprio alla stessa dignità della musica classica, e quindi invece di far fare all'orchestra le variazioni sul tema che l'orchestra stessa aveva fatto, le variazioni sono state fatte con degli incontri al buio, cioè nel senso, i grandi jazzisti o grandi musicisti come Franz Di Cioccio della PFM che hanno partecipato a questo disco sono venuti sostanzialmente lasciandosi trasportare dall'immediatezza delle emozioni di quella registrazione, senza magari neppure conoscere la musica, ma scoprendola in sala insieme. Oh, voi e tu hai finito per dare in questo doppio percorso, perché c'è questo percorso musicale, c'è un percorso che riguarda la musica e il cinema, che ha dato soddisfazione, perché secondo me molti iniziano a dire è un po' l'erede di Morricone e così. Poi c'è quest'altro percorso, oltre alla ricerca musicale e al cinema, che riguarda prodotti, aziende, avete dato anche la musica per l'Italia. Questa terza cosa rischia, fa rischiare le prime due o moltiplica? Perché è un po' delicata la terza cosa, cioè quella dei prodotti e delle aziende. Ma io sono convinto, cito sempre un esempio, quando l'editore di Astor Piazzolla disse ad Astor Piazzolla scrivimi per favore una musica che non duri come normalmente accade nelle tue suite 7-8 minuti, mi riesci a scrivere una musica di 2 minuti e mezzo? Astor Piazzolla, che chi ama il personaggio, era una persona abbastanza rabbiosa e irascibile, mandandolo a quel paese gli buttò uno spartito 3 giorni dopo per una pubblicità ed era Libertango. E quindi penso che questo basti per comprendere, voglio dire, come la musica per me, ecco, se dovessi dare solo, non della mia musica, ma una definizione di quello che per me è la musica è un liquido che deve essere in grado di prendere sempre la forma del contenitore che è destinato ad accoglierla, che sia l'anima. E vedi, la diversità di punti di vista. Per me invece la musica è un solido, è un icosaedro, quindi pensa un po'. Però adesso non andiamo avanti su queste cose, perché loro ci regalano, Raymond Trio adesso ci regala un inedito, perché questo non lo trovate ancora distribuito né nei due dischi precedenti né in Igloo che trovate adesso, e questo inedito si chiama L'Orchidea. Noemi, mai come questa volta mi dispiace dover dire, ma insieme sono felice di dire pubblicità. Eccoci tornati in studio in questo incontro con regali straordinari come l'ultimo inedito che ci hanno regalato Remo Anzavino, Marco Anzavino, suo fratello alla chitarra acustica, Gianni Fassetta, meraviglioso, alla fisarmonica. Ma ora questo sarà uno dei due brani che sentiamo, che dal disco Igloo, perché qui sentirete c'è l'intera orchestra dentro. Questo è quello che devo ammettere, loro non lo sanno, forse a me piace di più, insieme a quello a cui dà il nome, ma quello che piace di più di tutto l'album, si chiama Tempo Tempesta. E sentite un po' quanta tempesta c'è in questa musica. Allora, si cominciava con la reiteratività del Philip Glass di Miglior Annata, poi c'era uno sviluppo in Iman, si finiva con un po' di elettronica. Quanto contano questi nomi che dico, Remo? Contano qualche cosa nella testa quando scrivi questo oppure non contano niente? Assolutamente contano, perché hai citato, io dire, musicisti che hanno segnato il Novecento. Mi riferisco in particolare a Philip Glass, che è un compositore che io amo perdutamente, trovo le sue sinfonie tra le cose più belle del Novecento per me. Ma in generale, nel mio modo di scrivere, c'è sempre un elemento poi molto subliminale, che è legato a qualcosa di molto plebeo, di molto sporco. Per esempio, perché penso che poi quando ti sporchi le mani, in realtà sei nella verità delle cose e fotografi sempre le persone, le scene della quotidianità, e per farlo devi un po' sporcarti le mani. E sicuramente ha questo gusto sinfonico minimale, perché questa musica, come hai colto, è scritta su una sola battuta di violoncello, in cellula molto minimale. In effetti, dentro, in maniera molto subliminale, ci sono per esempio delle cose di Kashmir, delle Zeppelin. C'è il giro di violoncello, un giro che rimanda molto più all'hard rock, a un certo tipo di scena, la Deep Purple, alle Zeppelin, però probabilmente non lo cogli in maniera molto visibile. È una cosa subliminale, perché è meticciata con un gusto del minimalismo, col gusto dell'orchestra. A proposito di minimalismo, chi fosse interessato, per così dire, ad approfondire e non capisse, per esempio, c'è nel Novecento, in questi ultimi anni del Novecento italiano, in primi anni del 2000, c'è chi ha percorso un altro filone di ibridazione delle cellule melodiche semplificate con grandi tradizioni, e le ha per esempio innestate sulla monodia gregoriana. Sto parlando di Durighello. Chi voglia farsi un'idea di come ci possono essere questi percorsi musicali, Gianmarino Durighello, vada ad ascoltarlo, rimarrà, a mio giudizio, per come io amo questo tipo di musica, impressionato da che cosa si può tirar fuori da ibridazioni. Sto parlando di monodia gregoriana rispetto al minimalismo. E poi, com'è venuto il successo? Ma insomma, diciamo che, sai, una parola con cui sempre si fa fatica a fare un confronto, perché insomma, è sicuramente quello che è avvenuto che qualcuno si è accorto di quello che facevo, e che per me è già una grandissima cosa. È successo in maniera molto naturale, io non pensavo neanche che avvenisse, però è successo che soprattutto le persone che venivano ai primi concerti non mi chiedevano per quale filmuto avessi scritto questa cosa, ma mi chiedevano dove trovare queste cose. E lì ci siamo convinti, proprio con Gianni, con Marco, con cui abbiamo iniziato, suoniamo da sempre, che forse era arrivato il momento di provare a incidere queste cose, a registrarle. E poi sicuramente ci sono state delle situazioni musicali, concerti, rassegne, festival, anche, devo dire, persone competenti, giornalisti, che hanno sicuramente saputo valorizzare e mettere al centro dell'attenzione la nostra musica, insomma. Contano ancora i giornalisti? Beh, secondo me alcuni giornalisti sicuramente sì. Ma stiamo parlando di Gino Castaldo, questi qua? Sì, anche per dire, Vincenzo, no? Mollica. Vincenzo, sì. Mollica. Sì, bisogna dire sicuramente che per un ragazzo, voglio dire, sai, che ha 25-26 anni, che fa una musica senza le parole, che non si capisce bene cos'è, sai, che un altro giorno dica questo è bravissimo. A me mi ha aiutato, perché una settimana dopo sono iniziati a uscire dei concerti, ho fatto Umbria Jazz, ho fatto Ravello, cioè ho fatto una serie di festival molto probanti. cioè i festival in cui quando vai a suonare, prima di te ci ha suonato McCoy Tyner. È un'ascesa, insomma, su una scala di eccellenza. Cioè, in un certo senso sali su dei di visibilità, di proiezione ai circuiti più elevati. Ma proprio come dicevi tu, di credibilità. Cioè, alla fine, secondo me, è importante che da subito ti possa capitare la fortuna di suonare su un palcoscenico in cui il giorno prima ha suonato Chick Corea. Perché questo ti fa capire se devi cambiare mestiere oppure no. Ora, andiamo con un altro pezzo dal vivo, Tabù. In questo caso a suonare sono? Beh, in questo caso a suonare siamo in trio, perché siamo dal vivo, quindi pianoforte, fisarmonica e chitarra, ma questo è un po' il nostro simbolo, del nostro trio, perché come sentirai in questo brano ogni strumento falsifica la propria funzione naturale, quindi la chitarra diventa una percussione, la fisarmonica diventa un violino e il pianoforte diventa un contrabbasso. Tabù. Eccoci qua, era Tabù con Remo al piano, Marco Anzovino alla chitarra acustica, Gianni Fassetta alla fisarmonica. Tabù, quindi il nome di uno dei due album precedenti a questo, molti lo chiedete, si chiama Igloo, l'album, l'ultimo di Remo Anzovino e di chi suona con lui. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, ma torniamo dopo e c'è ancora musica. E torniamo con il brano eponimo, quello che dà il nome all'album di Remo Anzovino, Igloo. È un brano strumentale, quindi questo non è dal vivo, ma è dal disco Igloo, Igloo, Igloo, perché in molti lo chiedete. E forse si capisce ancora meglio perché un film di Lang, Murnau di Vine, possa essere accompagnato da musica di questo tipo. Io devo dire che sono entusiasta. C'è un dibattito che si è aperto tra i nostri ascoltatori. Arrivano gli sms in cui alcuni, secondo me, che hanno un forte pregiudizio verso la parte che io ho svelato in cui fate musica anche commerciale, è partito tutto il refrain che capisco benissimo. No, musichette, bubao, canzonette, eccetera. C'è una parte che si ferma, ascolta e approfondisce. Quindi ve lo dico per sapere che, diciamo, il pubblico di Giannino è un pubblico di matti come lui e non è che sia proprio un coro unanime, prevalgono quelli a favore, però c'è chi critica perché non capisce, perché dice come su un palco con Chick Corea. Sì, ho capito ragazzi, però nel Pantheon ci si entra perché si entra dal basso nel Pantheon, perché se voi abbiamo un'idea che c'è solo il Pantheon nella musica, sbagliamo, bisogna tenere le orecchie aperte e sentire i percorsi di ricerca che ci sono. Io mi sono sempre sforzato, che faccio musica con la mano, col dito mignolo della mano sinistra, di tenere aperte le orecchie. Teniamo aperte le orecchie perché questa è la strepitosa capacità del nostro paese, sapere proporre gente che mette insieme cose diverse, però le sa fare con capacità di grande qualità tecnica. Cioè c'è tecnica in questa musica, ve lo dice questo cretinetto che sono io, perché non sono affatto, come dicono alcune, motivetti strapazzati. Ragazzi, non, se pensate che siano motivetti strapazzati, non sapete di cosa state parlando. Possono non piacervi, potete avere altre idee, però questa è, signora, musica. E che sviluppi avrà Remo in futuro? Beh, insomma, sicuramente ci sono molte cose che stiamo per fare. Sicuramente è nato un progetto molto importante con il batterista che abbiamo sentito in questo duetto, che è un certo Franz Di Cioccio della PFM. Non proprio un ultimo anche lui. Ecco, che si è, insomma, veramente ha fatto una cosa meravigliosa nel disco che si apre appunto con questo duetto. E da lì è nata un'amicizia molto importante che si svilupperà in un progetto molto importante. Abbiamo già fatto un concerto insieme che è stato bellissimo al Museo della Scienza di Milano. E, insomma, stanno nascendo delle cose importanti e penso che a breve se ne saprà. Sentite, e noi purtroppo abbiamo dannatamente finito il tempo, e quindi a me non resta che dire che Marco Ansovino, il fratello, Marco Ansovino è alla chitarra acustica, l'avete sentito, Gianni Fassetta, che avete sentito alla fisarmonica, insieme a Remo, insieme a tutti quelli che con a più ampie collaborazioni musicali cooperano a questo progetto, secondo me sono un regalo. Io in piccolo spero di avervi dato questa finestra aggiuntiva di una fascia di pubblico che è appassionato a economia, politica, eccetera, eccetera. Queste non sono trasmissioni serali musicali. A me dispiace non fare quella, perché io finirò a essere, lo dichiaro, molto più appassionato di questa roba qua, che è della rottura di palle di Berlusconi e della fiducia e delle tasse da pagare. Questa è la conclusione in linea con i programmi che io faccio, però io spero di aver fatto un regalo piccolo, infinitesimo, rispetto a quello che avete fatto a me scoprendovi tanto tempo fa, oramai 2 anni fa. Non vi conoscevo, ci siamo conosciuti su un palco qualche giorno fa. Io vi dico auguri e soprattutto continuate così, perché questa è la cosa che consente a tutti quanti di andare avanti nella vita. La musica è uno dei più strepitosi regali. Le donne e gli uomini alle donne, io sono un uomo quindi parlo delle donne, le donne non sono spesso all'altezza dei nostri sentimenti, ho detto non sono all'altezza dei nostri sentimenti perché sono più in su e ci deludono con l'amore. La musica, anche quando sei deluso, non ti delude mai, a differenza della politica e delle tasse. Appuntamento a domani, grazie a Renzo, Remo, Ansovino e Fassetta che ci hanno oggi intrattenuto con questo strepitoso regalo. A domani, linea al Giornale Radio.